A metà della settimana, a seguito di tutte le polemiche che ci sono state, di cui dicevamo in apertura di questo nostro spazio, è arrivata la proposta di istituire una vera e propria patente anche per le microcar e per le minicar. Qual è comunque la posizione della vostra associazione sull'argomento? Ma assolutamente d'accordo. Io credo che il Ministero dei Trasporti cercherà di fare, lo farà senz'altro, di anticipare il recepimento della direttiva patenti, che è una direttiva europea. Per i ciclomotori è prevista una patente che mi pare che si chiami A0, quindi una patente specifica, con una teoria, con della formazione alla guida. Sarà poi il Ministero che, nell'ambito della sua autonomia, deciderà gli esami, come e in che modo farli. Siamo d'accordo. Più avremo dei conducenti abili alla guida e sicuri per loro e per gli altri, più potremmo dire che i nostri veicoli sono, anche sotto questo aspetto, dei veicoli sicuri. Non vogliamo fare il business delle scuole guida, contro le quali non abbiamo nulla, ma non vorremmo che fossero gli uniche beneficiati.